English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Giulia, che è in collegamento, come avete sentito, telefonico con noi. Non vi diciamo in quale parte del mondo è fuggita questa volta, però non manca il nostro appuntamento con English 24. Non poteva mancare anche perché dobbiamo parlare di uno dei suoi e miei scrittori preferiti. Giulia aveva già annunciato il suo amore per Amos Oz e questa volta invece è innamorata dei Veggers, ma questa volta sono innamorata anch'io. Beh, è uno scrittore formidabile che abbiamo conosciuto tutti in Italia attraverso lo straordinario libro che era L'opera struggente di un formidabile genio, ma noi ne parliamo perché ha ricevuto il premio TED, il premio che è stato istituito dalla Technology Entertainment Design, la conferenza che si tiene ogni anno a Monterey, California. I vincitori del premio TED ricevono $100,000 e la possibilità di esprimere un desiderio per cambiare il mondo. Cosa ha detto Dave Eggers quando ha ricevuto questo premio TED? Ebbene, ascoltiamo insieme il suo discorso. Ascoltiamo subito la prima parte quando Dave Eggers ha ricevuto il premio TED. Thank you so much, everyone from TED and Chris and Amy in particular. I cannot believe I'm here. I have not slept in weeks. Neil and I were sitting there comparing how little we've slept in anticipation for this. I've never been so nervous, and I do this when I'm nervous. I just realized. So I'm going to talk about sort of what we did at this organization called A26 Valencia, and then I'm going to talk about how we might all join in doing similar things. Thank you so much everyone. Ecco i ringraziamenti di Dave Eggers. Emozionatissimo, sul serio, nervosissimo, Giulia. Le TED Lectures e questo premio di cui parlavi tu è veramente un riconoscimento incredibile per gli innovatori. E forse, insomma, scopriamo che benché così poco timido nel raccontare di sé nei suoi libri, lo è, come forse lo siamo quasi tutti, quando hai davanti una platea molto competente. Quindi, prima di tutto dice I cannot believe I'm here. Quindi ancora non riesce a crederci, non riesco a credere che di essere qui. Naturalmente se lo avessimo scritto avremmo dovuto dire I cannot believe that I'm here, ma lui sta parlando, quindi può togliere il that, e poi ci dice anche che I have not slept in weeks, cioè sono settimane che non dormo. Sleep è un verbo irregolare, sleep, slept, slept, quindi lui fa questa forma un po' complessa e ci spiega che insomma l'emozione è tale che dorme pochissimo. Tra l'altro poi fa ridere tutti perché effettivamente si rende conto di essere particolarmente esagitato, però dice: mi succede quando sono così nervoso, niente da fare. I realize, quindi noi a volte ormai abbiamo la cattiva abitudine di tradurre io realizzo che, in realtà è mi rendo conto che. I realize that I do this when I'm nervous and I've never been so nervous, e lo ripete, quindi è nervoso e non ha dormito da notte, da settimane. Si è anche confrontato con un suo amico comparing how little we slept, e ci siamo confrontati e abbiamo fatto una gara quasi a quanto poco ciascuno di noi avesse dormito, però insomma adesso è lì ed è lì che ringrazia, perché appunto farà poi una tutti possono sentirla su internet. Questo discorso, tra l'altro, è lungo, dura 20 minuti, quindi si può anche vedere che se l'è preparato bene, perché parla a braccio come fanno quasi sempre gli americani quando in queste occasioni. E c'è anche una brevissima anticipazione di quello che poi sta per dire. Sì, perché lui parlerà di questo 826 Valencia, che poi altro non è che un indirizzo, cioè la sua organizzazione ha sede a Valencia Street numero 826, che tra l'altro lui dice come 826, quindi 826, e I'm gonna talk about, gonna, sappiamo, solo un americano lo direbbe, I'm gonna talk about anziché I'm going to talk about, e quello che facciamo lì, e soprattutto how we all might join in, e questo è legato a quello che dicevi tu, il desiderio, quindi come tutti possiamo to join in, partecipare e entrare in questo progetto, perché è il progetto che lo assorbe forse più della scrittura, che comunque resta una sua attività così collaterale. E come ha fatto lui a entrare in questo progetto, comincia a raccontarlo nel suo discorso. Back in about 2000, I was living in Brooklyn. I was trying to finish my first book. I was wandering around dazed every day because I wrote from 12 a.m. to 5 a.m. So I would walk around in a daze during the day. I had no mental acuity to speak of during the day. But I had flexible hours. In the Brooklyn neighborhood that I lived in, Park Slope, there were a lot of writers. It's like a very high per capita ratio of writers to normal people. After college, so many of my friends went into teaching, and so I was always hearing them talk about their lives and how inspiring they were, and they were really the sort of the most hardworking and constantly inspiring people I knew. eccolo qua, il ricordo racconta di quando è successo il suo incontro con una realtà che lui non conosceva, si parla del 2000. Sì, qui c'è un'espressione che è quasi intraducibile, nel senso che è back in about 2000, noi non possiamo dire naturalmente indietro nel circa nel 2000, dobbiamo dire tornando indietro nel tempo sarà stato circa il 2000, ecco così dobbiamo più o meno dire in italiano, and I was living in Brooklyn, perché lo deve precisare, Brooklyn naturalmente è uno dei five boroughs di New York, forse il più famoso, talmente grande che poi deve anche precisare in che parte di Brooklyn viveva, cioè nel neighborhood Park Slope. Comunque poi nel frattempo adesso Dave Eggers vive in quella fantastica città che è San Francisco, dove c'è appunto Valencia Street e 826 Valencia, però back in 2000 he was living in Brooklyn. Abbiamo parlato del suo primo libro che è uscito proprio appunto nel 2000, l'opera struggente di un formidabile genio. Lui stava finendo probabilmente di scrivere proprio quello, perché I was trying to finish my first book, evidentemente era lì che lavorava tantissimo per scrivere questo libro. E cosa è successo? Divertente, perché ci spiega anche un po', come ne parlavamo quando appunto abbiamo parlato di Amos Oz, gli vari orari di lavoro degli scrittori. Ecco, scopriamo che lui scrive, I wrote from 12 a.m. to 5 a.m., cioè scrive proprio da mezzanotte alle 5 del mattino. Dopodiché probabilmente, non so se fa come Amos Oz che va nel deserto, a Brooklyn non può, a San Francisco anche un po' difficile, quindi si riposa un po' e poi esce. E quindi lo ammette, dice I had flexible hours, perché poi sostanzialmente se li dà lui questi orari, quindi orari flessibili, e poi he just walked around. Chi incontrava in queste passeggiate? Lui dice appunto aveva molti amici che facevano gli insegnanti. Sì, lui si rende conto, e qui fa ridere perché dice che in questo Park Slope, che è appunto un neighborhood di Brooklyn, perché Brooklyn è enorme se guardate su una cantina, Manhattan è molto più piccolina, e in questo neighborhood in particolare, Park Slope, c'è un high pro capita ratio di writers to normal people, cioè la percentuale di pro capite di scrittori rispetto a quelli lui chiama normal people, come se gli scrittori fossero abnormal sostanzialmente, ma forse un po' lo sono, è molto alta. E quindi insomma in queste ore libere che aveva, wandering around in the days, quindi così bighellonando per il suo quartiere, continuava a incontrare gli amici scrittori, come fosse una specie di destino imbattersi solo in persone che lavorano con le parole. Anche perché molti suoi amici after college went into teaching, cioè si erano messi proprio a insegnare. Ma sentiamo Giulia insieme cosa gli raccontavano questi amici che insegnavano. I knew that so many things that they were up against, so many of the struggles that they were dealing with, and one of them was that so many of my friends that were teaching in city schools were having trouble with their students that were keeping up at grade level in their reading and writing in particular. Now, so many of these students that come from households where English isn't spoken in the home, where a lot of them have different special needs, learning disabilities, and of course they're working in schools which sometimes and very often are underfunded. And so they would talk to me about this and say, you know, what we really need is just more people, more bodies, more one-on-one attention, more sort of hours, more expertise from people that have skills in English and could work with these students one-on-one. Ecco qua il problema col quale si è confrontato, il problema che gli hanno raccontato i suoi amici insegnanti, e da qua si capirà anche un po' il suo sogno, quello del premio della TED Conference. Per sapere poi come va a finire, ovviamente ve l'abbiamo detto, si trova proprio sul sito della conference, si trova online, ma noi intanto sentiamo e analizziamo quello che ha detto il nostro Dave Eggers spiegando quello che aveva scoperto incontrando i suoi amici insegnanti. E qui c'è un bel phrasal verb che è to be up against, che naturalmente è una composizione del verbo to be, ma to be up against something vuol dire confrontarsi, essere, trovare un ostacolo in qualche cosa. Quindi lui, i suoi amici insegnanti, gli raccontavano le things they are up against, cioè tutto quello con cui devono combattere sostanzialmente, and the struggles they were dealing with. To deal with è un phrasal verb, nel senso che rafforza il fatto di avere a che fare, to deal with, quindi avere a che fare con questi, con queste vere e proprie battaglie. Uno struggle è una battaglia. Quali erano questi ostacoli di fronte ai quali si trovavano? Ci sono tantissimi kids che vengono from households, cioè da famiglie where English isn't spoken in the home, cioè da famiglie in cui l'inglese non è la lingua che si parla a casa, e quindi they have, quando vanno a scuola e lì la lingua franca diventa l'inglese, così come qui da noi è l'italiano, hanno degli special needs, delle necessità particolari, oppure possono avere anche delle learning disabilities, delle difficoltà di apprendimento che possono essere di tantissimi gradi e di tantissimi tipi diversi. E ultima, a tutto questo si aggiunge il fatto che le schools public, qui naturalmente stiamo parlando di scuole pubbliche, addirittura city schools, che sono proprio le scuole gestite dai comuni, in America è tutto federale, quindi è tutto molto complicato, schools are underfunded, cioè sono sotto, hanno fondi non sufficienti, sono sottofinanziate, ecco, potremmo dire. Che bisogno esprimevano questi amici insegnanti? Gli chiedevano sostanzialmente di collaborare con loro, perché quello che hanno bisogno è people who have skills, le persone che abbiano delle capacità relative, comunque legate all'uso della lingua, quindi chi meglio di uno scrittore, perché quello che questi amici volevano fare, che adesso lui sta facendo con A26 Valencia, è work with the students one on one, cioè lui proprio parla di questa, dell'importanza, e se sentite il discorso c'è una parte bellissima dove spiega come questo genera autostima nelle persone, di questa one on one relationship tra un tutor, chiamiamolo come vogliamo, uno che maneggia bene l'inglese, e un bambino invece, un ragazzo che con l'inglese ha difficoltà, e questa one on one relationship è quello che può far fare la svolta. Grazie Giulia, intanto salutiamo Giulia Crivelli, perché il nostro tempo radiofonico è finito qui. La prossima settimana ti vogliamo in studio, Giulia. Promesso. Promesso da parte di Giulia. Ringraziamo anche Valeria Bernardi in regia. Vi ricordiamo che il nostro English 24 è anche in edicola. Da Marta Cagnola a tutti un saluto e l'appuntamento alla prossima puntata di English 24.